Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo argomento da affrontare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di compagnie aeree multate dall'antitrust, 1 milione di euro in totale per EasyJet e per Ryanair per alcune irregolarità che riguardano le polizze assicurative dei viaggiatori sulle quali c'era poca chiarezza. Cos'è successo? Sì, innanzitutto Mirko, in questo argomento di oggi trattiamo quelle che sono sostanzialmente le pratiche commerciali scorrette. Perché di questo si tratta, in quanto questa volta a forza di segnalazioni è intervenuta l'antitrust, che ci è andata giù abbastanza dura nei confronti di queste due compagnie, che si tratta appunto di Ryanair e di EasyJet, perché sostanzialmente risulta che tutto quello che riguarda la possibilità di poter sottoscrivere queste polizze di assicurazione facoltative e non, ma che comunque permettano al consumatore e al viaggiatore di poter accedere a quelle che sono le forme di rimborso previste e determinate in caso di ritardo, in caso di annullamento del viaggio, certamente non erano né di facile accesso e le informazioni non erano affatto chiare e trasparenti come dovrebbero essere. Certamente anche qui si rientra su quella casistica di, come detto, con acquisti commerciali scorretti, perché sappiamo che oggi, soprattutto anche per effetto di quelle che sono le importanti normative europee, in questo senso negli ultimi anni si sono fatti dei passi da gigante e certamente la cosa più importante che tutti i consumatori devono ricevere quando navigano questi internet sono proprio le informazioni, che devono essere chiare e trasparenti. Spieghiamo a cosa dovrebbero servire queste polizze assicurative. Allora, innanzitutto, per essere preciso alla domanda che mi hai fatto prima, l'importo complessivo della multa è di circa un milione di euro, esattamente 850.000 per Ryanair e 200.000 EasyJet. Gli importi sono differenti perché nella procedura di contestazione che l'antitrust ha rivolto nei confronti di queste compagnie, EasyJet ha sostanzialmente cercato di mettersi in regola contro a quelli che è stato un po' l'atteggiamento di Ryanair. Per quanto riguarda le assicurazioni, si tratta sostanzialmente di assicurazioni che permette di ridurre e di coprire i rischi determinati per l'annullamento del viaggio. Sono delle polizze che si acquistano sul web e che si dovrebbero teoricamente poterle facilmente individuare e poterne anche leggere e comprendere bene i contenuti e i significati. In realtà scopriamo che, oltre che essere stato di difficile accesso, i contratti informativi venivano rimandati poi anche dei link e dei sottolink, e questo certamente non agevolava il consumatore a riuscire a recuperarla, a leggere nelle condizioni e a poterla sottoscrivere, quasi un po' come se questa tipologia di assicurazione si cercasse in tutti i modi di renderla nota il meno possibile. Anche qui, come ho detto, parliamo di due compagnie low cost che sono molto utilizzate anche qua in Veneto. Ricordiamo che EasyJet parte da Marco Polo, mentre Ryanair parte anche dall'aeroporto di Treviso, e sono delle compagnie che permettono di poter fare tutti gli acquisti dei biglietti e anche le modalità, le procedure di imbarco direttamente tramite internet, e che quindi avrebbero dovuto un po' anche sviluppare queste che sono un po' le loro competenze. C'è stato il rischio che qualcuno pagasse cose che non voleva pagare? Normalmente quando ci si imbatte in questi siti, e chi ha avuto a che fare per l'acquisto di queste compagnie, c'è sempre il rischio che durante la fase di registrazione e di acquisto dei biglietti il sistema magari non funziona in maniera fluida e si debba rifare tutta la procedura, quindi rischio veramente di dover anche acquistare due volte il stesso biglietto. Sostanzialmente casi di questo genere non mi sono mai capitati moltissimi, ma devo anche dire che i casi che si rivolgono a questo tipo di compagnie sono di tutt'altro genere e anche molto ben più gravi. Ricordiamo anche, e riprendiamo un argomento che avevamo trattato qualche settimana fa, la normativa che entrerà in vigore a metà di giugno. Sì, il 14 giugno 2014 il governo italiano ha recepito la nuova normativa europea in termini di recesso, che anche questa va a regolamentare quelli che sono un po' i rapporti che ci devono essere tra il consumatore e il venditore quando ci sono degli acquisti che avvengono fuori da esercizi commerciali, quindi in questo tipico caso che è per esempio l'online, dove va ad aumentare quelli che sono i giorni per poter ripensare l'acquisto, il famoso recesso, il periodo di ripensamento, che da 10 passano a 14 giorni, e soprattutto obbliga e costringe il venditore a essere molto limpido e trasparente su quelle che sono le informazioni che deve dare sui siti, e soprattutto tutte le responsabilità determinate dalle fasi di acquisto e anche del trasporto sono conducibili solamente al venditore, quindi non ci sarà più questo rimbalzo, come avviene tante volte, tra il corriere e il venditore. Tornando alle polizze assicurative di cui dicevamo in apertura, è conveniente farle? È ipotizzabile suggerirle? Cosa ne pensi? Ma noi di solito le suggeriamo, però bisogna anche dire che chi si rivolge a questo tipo di vettori normalmente lo fanno perché non vogliono spendere soldi, risultano molto economici. Secondo noi, o forse secondo me, io le suggerisco qua anche in base al tipo di viaggio che una persona fa, perché certamente se io spendo 29, 39, 59 euro per andare, non so, fino a Catania o fino a Palermo, certamente, visto l'importo, vale la pena se considerare fare una polizza. Diversamente, se una tratta diventa molto più costosa e il viaggio in ballo è un viaggio che non certamente si tratta di un weekend, ma si tratta di un viaggio anche da fare, tutto quello che può tutelare, secondo il nostro avviso, diventa veramente necessario valutarlo e convincersi anche di poterlo fare, insomma. E allora, con questo consiglio, buon viaggio a chi partirà a breve o non a breve. Noi con l'Adico ci risentiamo la settimana prossima, nel mese di marzo, con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Minco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.